Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 21esimo episodio di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. In tutto il suo periodo infantile, la grande rete, lo sappiamo, è stata dominata sia come popolazione, sia come scelte di fondo, soprattutto dagli uomini. Ma a partire dai primi anni 2000, con la svolta del 2.0, la tendenza si è invertita drammaticamente. Da quando tutto, o quasi tutto, ruota intorno ai social media, sono infatti le donne a usarla di più e, potremmo dire, a usarla meglio, vale a dire come piattaforma per cambiare le cose nel mondo reale. Ne parliamo tra pochissimo. È meraviglioso, finalmente, qualcuno che sa tutto di noi, che sa a che ora ci svegliamo la mattina quando cominciamo a postare i nostri ameni commenti su Facebook o di chi ci facciamo amici su YouTube, che sa quando siamo tristi, con che periodicità siamo tristi, oppure quando siamo allegri, e con che periodicità siamo allegri. Io questo grande fratello vorrei che diventasse un grande marito, quasi quasi, un grande amante. No, perché gli amanti però non vogliono sapere tutto di te. Un grande marito, il grande fratello in realtà, un grande marito, meraviglioso. Lucia, ti ringrazio, sei stata preziosissima, mi hai messo di buon umore. Il grande marito. È meraviglioso, non ci ho pensato da sopra, cazzo. Grandi le donne, grandi. E allora, questa era Maddalena 61, una delle donne più visibili in rete, ha un suo canale di YouTube dove dice cose serie, cose semiserie. Oggi, come avrete capito, il tema del web al femminile... attraversa trasversalmente tutta la puntata, in cui però parleremo anche di cose un po' più verticali, a cominciare dal nostro primo ospite di oggi, che è Paola Santoro. Ciao Paola. Ciao, ciao a tutti. Detta anche, nota, meglio come Wonder Paolastra. Ebbene sì. Wonder Paolastra, non gli chiedo perché, io lo so perché, perché è una di queste Wonder Woman che riescono a fare 360.000 cose contemporaneamente, sempre collegata, sempre in azione, sia nel mondo online, nel mondo dei bit, sia nel mondo degli atomi, come direbbe Luca Conti, che salutiamo, magari ci sta ascoltando. Allora, sì, oggi parliamo di una cosa che è stata anche abbastanza sfruttata, ci sono stati eventi sul tema delle donne del web, c'è anche una certa retorica che chiaramente attraversa un po' tutti questi discorsi. Tipicamente gli uomini coinvolti in queste conversazioni dicono cose poco significative perché sono imprigionati dalla correttezza politica, dalla politically correctness, diciamo, dalla political correctness. Io oggi cercherò di non farlo, cercherò di lanciare qualche provocazione, però intanto, parlando di cose concrete, tu, Paola, sei una delle animatrici di questa bella cosa che sono le Girl Geek Dinner, che sono degli eventi nel mondo reale che nascono in rete ma poi si sviluppano in, devo dire, splendide cene, perché io sono riuscito anche ad intrufolarmi in una di queste, perché sono ammessi anche gli uomini, corretto Paola? Sì, sì, sono necessariamente, anche gli uomini fanno parte delle nostre cene. Ecco, ma il format esattamente qual è? Il format è un format che proviene dall'Inghilterra, che poi si è diffuso in tutto quanto il mondo, soprattutto in Italia, devo dire, perché ci sono diverse realtà in diversi paesi. Il format è semplicissimo. Alla base di tutto c'è il networking, il social networking. Ci si mette insieme, si sceglie un tema. Insieme parlo delle ragazze che fanno parte del gruppo. Anzi, ne approfitto per salutare anche le altre ragazze, che sono Simona Forti, Francesca Antinori, Claudia Silvestri e Tania Valentini. Tutte del gruppo quelle romane. Delle Gigi di Roma, sì. Ecco, perché poi ci sono anche le milanesi, le bolognesi. Sì, sono le ragazze di Milano, di Bologna, siamo tutti gruppi autonomi e indipendenti, però chiaramente collaboriamo, ci scambiamo spesso e volentieri idee e opinioni. Ecco, ma questa è una domanda che mi faccio sempre. Quando qualcuno si inventa il barcamp e poi in tutto il resto del mondo fanno i barcamp? Quando qualcuno si inventa la startup weekend e poi in tutto il mondo si fa la startup weekend? C'è un format con delle linee guida o semplicemente ci si fida del fatto che qualcuno usando un certo logo poi alla fine lo fa nel modo migliore per ottenere obiettivi paragonabili quantomeno a quelli della casa madre mondiale? Sì, infatti ognuna, come ti dicevo, ogni realtà è differente l'una dall'altra. Sicuramente quelle italiane sono diverse tra di loro anche nelle differenti città. Noi ascoltiamo molto il nostro territorio, il territorio romano, e monitoriamo costantemente la rete per capire quale può essere il tema che può interessare le persone che ci seguono, oppure soprattutto, come sta avvenendo ultimamente, anche nuove persone. Ultimamente abbiamo visto veramente facce diverse, abbiamo avuto risposte da realtà che non immaginavamo neanche potessero essere interessate ai nostri eventi. Interessate dal punto di vista, perdonami il francesismo, dei finanziamenti, nel senso che voi avete degli sponsor. Noi abbiamo degli sponsor, infatti come dicevo prima il format è questo: si sceglie un tema che appunto viene dalla rete e dopodiché si cercano delle speaker che possano portare la loro testimonianza relativa al tema. L'ultima che abbiamo fatto aveva a che fare con l'open source e abbiamo chiamato quattro ragazze che hanno portato appunto la loro esperienza, sia come donne che lavorano, quindi che sono che usano la tecnologia per lavoro, sia donne che invece lo fanno esclusivamente per passione. Tra poco ne sentiremo una di queste, perché poi anche il tema dell'open source in qualche modo entrerà nella trasmissione. Lo scopo di questa operazione, cioè alla fine della... voi in base a che criterio stabilite il successo o il mancato successo, perché potrebbe anche succedere, di un evento di questo tipo? Quando è che siete contente? Quando? Noi siamo contente durante l'evento, perché la gente ci chiede informazioni su che cosa sarà il tema e su chi ci sarà soprattutto, ma anche prima, perché noi lanciamo il tema mesi prima sul nostro blog, sulle nostre piattaforme social, e già da lì abbiamo delle risposte importanti da come ti dicevo, da chi ci segue, ma soprattutto da chi ci conosce. Quindi fate un fine tuning, cioè affinate perfettamente quello che la gente poi si ritroverà come esperienza sulla base degli input che riceverete, certo, dal vostro blog, il cui indirizzo è www.girlgeekdinnersroma.com. Ma siamo anche su Facebook, chiaramente, sempre, su Twitter, su tutte le piattaforme. Benissimo. I prossimi eventi almeno sul territorio romano, visto che questa è una radio romana. Sul territorio romano ne stiamo preparando uno per la primavera, un evento piccolo con un piccolo sponsor, ancora non vogliamo rivelare chiaramente cosa ci sarà, e poi stiamo già pensando e lavorando anche per l'evento dell'estate, che sarà il classico format, quindi un tema, delle speaker e un aperitivo. E questa è una cosa interessante, cioè sul web è possibile concepire eventi che hanno la flessibilità di dimensionarsi in base intanto all'investimento di chi fa lo sponsor. Poi magari può succedere benissimo che non ci sia lo sponsor. Adesso non è il caso magari della Gergic Dinner, ma all'inizio i barcamp era così, all'inizio era così, cioè esistevano magari, che so, il media partner oppure quello che portava da mangiare eccetera, però non esisteva qualcuno che finanziava in qualche modo l'organizzazione dell'evento, quindi diciamo le ore donna bisognerebbe dire in questo caso e non le ore uomo. Va bene, questo per dare diciamo una prima idea di quello che è una rete in cui le donne si stanno distinguendo appunto per questa capacità di non rinchiudersi nei circoli autoreferenziali di quello che succede nelle discussioni online, che lasciano un po' il tempo che trovano e spesso sono un po' fine a se stesse, no? Cercano in qualche modo di far parlare di cose di cui normalmente per esempio non si parla, perché non c'è un sistema di distribuzione anche che in qualche modo lo sorregga. Invece il web con questa flessibilità lo permette. Però naturalmente fin qui ce la stiamo un po' cantando e suonando noi, cioè noi ci stiamo facendo un sacco di complimenti, però non tutti sono d'accordo. Per esempio ci sono alcuni che da quando le donne si fanno sentire molto in rete reagiscono in modo scomposto, anche volgare, però anche divertente. Sentiamo un po'. Cioè internet quando sta diventando una merda, da quando è arrivata in mano alle femmine, cioè guardo come tutta la cosa, quando arrivano le donne da una parte, l'università diventa una cacata. Mo su internet, finché le femmine, capito, non sapevano manca a picciò computer, mo che hanno capito come funziona, cioè sono arrivate loro, cioè proprio dei livelli precipita a dei livelli spaventosi. cioè capito, fra poco il prossimo Windows che faranno dopo XP, capito, lo faranno proprio per le femmine, capito, cioè con il pupazzetto, la cosa, capito? I uccellini, i fiorellini, cioè, ragazzi, guarda, sono arrivate loro e proprio subito si sono messe proprio di casa sopra a Facebook, e tutti quanti con la speranza di chiavà tutta ad ammassarsi là sopra. Allora tu vedi questi cessi, ragazzi, che fanno il bello e il cattivo tempo e vanno distribuendo speranze a tutti quanti, no? E tutti vanno dalla mattina alla sera là sopra a massacrarsi. Ti ho inviato un poke, ma fa mocca. Allora, io spero che sia una sparuta minoranza quella che la pensa come Gianfranco Marziano, che è l'autore di questo video su YouTube, che ho cercato in qualche modo di addolcire mettendoci sotto una musica iperromantica di Bill Evans, ma non ha funzionato molto questa operazione. Adesso però, al di là della minoranza, eccetera, però si avverte, no, da parte di un mondo che è stato dominato per tanto tempo non dagli uomini, ma da una certa particolare categoria di uomini estremamente asociali, che sono i nerd. Poi diventati geek, sono diventati geek nel momento in cui sono diventati fichi, in qualche modo è indispensabile, perché nel frattempo avevano plasmato tutto in modo da rendersi indispensabili. E poi vedono arrivare le donne che ne fanno un uso più intelligente, perché di fatto sono più portate alla conversazione, quindi alle famose due vie introdotte col web 2.0, e c'è un po' sempre questa reazione. Se tu vai nei più rancidi sobborghi di Frankfurt o di Badù o di non so dove altro, anche su Facebook, ci sono quelli che subito, se c'è una donna che appena tira fuori un minimo di femminilità, eccetera, la butta un po' sul volgare, come abbiamo sentito poco fa. Tu avverti da donna un po' questo sottofondo. Capisco che tu frequenti un mondo estremamente più alto ed elevato, eccetera, però, insomma, sulla rete ci sta di tutto. Cioè, in qualche modo, ogni tanto non noti delle reazioni di questo tipo. Sì, certo che le noto. È vero che io frequento anche altre sfere che non sono necessariamente più alte e più elevate, però chiaramente nella massa di informazioni uno tende a selezionare le cose che più gli interessano e che possono portare un valore aggiunto. Tra cui anche questi aspetti, come dire così, folcloristici, ridanciani. Vabbè, lui non ha sbagliato, come si chiama, Gianfranco Marziano. Sì, attenzione, bisogna anche dire chi è, perché non è che lui in realtà pensa tutto questo. Attenzione, stiamo parlando di una persona che cerca è una specie di icona della scorrettezza politica, portata anche alle estreme conseguenze. Ha scritto dei romanzi, dei libri interessanti, è anche un cantastorie, suona la chitarra. Io ho un po' seguito quello che fa, però il filo conduttore è sempre questa provocazione continua, che insomma può anche dare fastidio indubbiamente, però non lo possiamo bollare come appunto il cretino che vuole farsi vuole farsi bello su internet, magari aggregando consenso proprio per via del suo estremismo. No, cioè, in qualche modo lui ha fotografato una tendenza che c'è tra gli uomini. Certo. Ecco. Quindi per questo io ti chiedevo, non è tanto lui che ci deve preoccupare, quanto il fatto che lui ha dato voce, in realtà ha dato una manifestazione anche così buffa di qualcosa, però in realtà di retrogrado e preoccupante. Poi tra l'altro proprio oggi ne parlavo col mio amico Matteo Stagi, che saluto, è circolato su Frankfurt un video che è molto molto più preoccupante di questo, cioè di un sermone di uno di questi predicatori del Corano del 2004, quindi parliamo di non troppi anni fa, in cui praticamente dice che il Corano ci invita a picchiare le donne. Allora, finché tutto questo rimaneva sui canali, lasciatemi dire, dell'estremismo islamico, sulle televisioni, eccetera, va bene, ma se poi diventa una cosa fica tra i ragazzini che vogliono farsi belli perché appunto sono dei macho, eccetera, e diventa una cosa virale, e purtroppo queste cose fanno strada su internet, no? E insomma, per voi non è simpatico, no? No, no, non lo è assolutamente, però appunto sono due discorsi differenti, no? Quello di chi mette sul Corano l'importanza del picchiare le donne, e chi invece non fa altro che dipingere una parte di realtà che esiste in rete come esiste fuori dalla rete. Non dimentichiamoci che in questi social network alla fine si riproducono anche dei modelli che ci sono fuori nella società che ci circonda. Il paese reale è anche quello che noi ritroviamo nei social media. I social media sono semplicemente una modalità di confronto, di dinamiche relazionali che esistono all'esterno, che possono cambiare se utilizzate in un certo modo. Mm-hmm. Ma se vengono invece utilizzate allo stesso modo in cui vengono utilizzate al di fuori, allora si ricreano queste stesse dinamiche. Cioè, io la rete la sfrutto attraverso la mia associazione di cui faccio parte, le Girl Geek Dinners, per veicolare un certo tipo di messaggio che faccio anche all'esterno. Quindi non è molto diverso da quello che fa il nostro Gianfranco Marziano. Alla fine io veicolo i miei ideali, i miei valori, e la rete mi aiuta. Certo. Poi magari cerco di distinguermi e di portare anche una sorta di concretezza, certo, nella vita reale ai miei valori, ai miei ideali. E a proposito di concretezza, adesso sentiamo una testimonianza, direi distante anni luce da quello che avevo sentito fino adesso, quella di una persona che sta cercando, soprattutto nel suo territorio, che è la Sicilia, che è il Catanese, che è la Val di Noto, di smuovere un po' le acque, soprattutto nel comportamento delle istituzioni, nel comportamento di chi gestisce i beni culturali, di chi gestisce, insomma, la straordinaria ricchezza e potenziale di questa terra, che invece sono lì un po' sotto la naftalina. È la voce di Floriana Coppoletta, che è intervistata ai microfoni di Radio Zammu. Salutiamo i colleghi di Radio Zammu di Catania, sono bravissimi. In occasione dell'ultima edizione degli Stati Generali dell'Innovazione. Quello di cui ho discusso è sostanzialmente l'innovazione radicale, però non solo l'innovazione radicale in genere, che può essere appunto rottura, creatività, condivisione, ma cos'è e cosa potrebbe essere l'innovazione radicale a Catania, perché bisogna contestualizzare ovviamente il tutto. E quindi, secondo me, dicendo proprio cos'è innovazione radicale a Catania, ho detto che secondo me bisogna appunto far comunicare le varie parti generazionali e istituzionali e anche di altre ovviamente natura, come appunto l'impresa, come possono essere anche le associazioni professionali. E sicuramente un qualcosa che è assolutamente importante è un fattore che manca, che è quella della sfiducia che c'è nei confronti di tutto questo sistema ovviamente legato all'innovazione. Quindi c'è una resistenza fortissima al cambiamento, e il cambiamento non viene molto spesso effettuato proprio perché non c'è la mentalità per andare avanti, le persone e quindi la mentalità. E quindi secondo me bisogna assolutamente costruire da quello, fare una sorta di tabula rasa, perché secondo me, se la città di Catania in questo momento fosse un'azienda e la sua brand reputation fosse valutata, sicuramente fallirebbe e potrebbe anche chiudere come azienda. Come bisogna fare, secondo te, per far arrivare questa comunicazione al cittadino, tra virgolette, semplice, che magari non ha ancora capito che poteva venire qua ed esporre la propria idea innovativa per la sua città? Beh, intanto ti posso dire che sono comunque stupita da un fattore. Ci sono varie generazioni presenti, che non sono solamente addetti ai lavori, ma sono persone che nella fattispecie sono dei miei soci della mia associazione, che sono dei semplici cittadini che stanno affacciandosi al mondo dell'imprenditoria e quindi stanno cercando di cambiare, perché hanno pensato che devono farsi venire un'idea per poter cambiare un minimo la loro vita e chissà anche quella della comunità di cui fanno parte. Quindi c'è un'età molto varia, devo dire che ci sono molti adulti, e quindi questo mi fa pensare bene, perché secondo me può essere un primo passo di dialogo e di apertura, perché le persone devono essere cambiate e vanno cambiate anche quelle che già purtroppo hanno i loro schemi mentali. Come fare a comunicare con i cittadini? Beh, secondo me bisognerebbe proprio coinvolgerli personalmente con le loro attività, e quindi coinvolgere commercianti, e secondo me una delle tappe fondamentali sarà quella del turismo, e quindi coinvolgere tutti gli operatori del turismo che operano nel territorio catanese, a magari dialogare e cercare proprio di trovare una sinergia tra di loro, senza che venga offerta una frammentazione di pacchetti turistici. Allora, questa era Floriana Coppoletta, innovatrice radicale, disruptive innovator, li chiamano nel mondo anglosassone. Non è un ingegnere, non è un'informatica. Non avete neanche sentito parlare troppo di web nelle sue parole, semplicemente si dà per scontato che tutte queste opere di disintermediazione delle catene produttive siciliane, lei le fa chiaramente nel suo ufficio, nella sua associazione, usando il web anche per diffondere le proprie idee. Invece, in linea da Verona, anche se lei sta normalmente a Milano, dovremmo avere un ingegnere, corretto? Ciao Silvia! Ciao! Silvia Bindelli, ciao, che è una delle promotrici di uno dei progetti di cui abbiamo fatto cenno poco fa, Ubuntu Women, che è stato presentato proprio anche a Roma, la ultima Girl Geek Dinner. Ce ne vuoi parlare brevemente, Silvia? Sì, certo. Allora, una breve introduzione. Ubuntu è un sistema operativo open source basato su Linux è fondato quindi su una comunità che ci lavora, che si occupa di distribuirlo, di tradurlo in tutte le lingue del mondo. All'interno di questa comunità la percentuale di donne è molto bassa, siamo intorno al 5% in questo momento. Con lo scopo proprio di aumentare la partecipazione femminile al progetto è nato il progetto Ubuntu Women a livello internazionale. Assieme a Flavia Weischitz ho fondato in Italia una sezione italiana di questo progetto, perché ci sembrava che la versione internazionale fosse magari percepita un po' lontana rispetto a chi ha qualche difficoltà magari a esprimersi in inglese. Certo. Quindi c'era anche un ruolo di traduzione, banalmente. Esatto. Di quindi, materiali, di formazione. Esatto, quindi come prima cosa ci siamo prefissi l'obiettivo di portare in Italia le attività del gruppo internazionale, quindi tradurre i messaggi che passano nella lista, presentare gli eventi che vengono portati avanti e oltre a questo creare dei nuovi eventi all'interno dell'Italia, quindi più vicini al territorio, e fare funzione di mentoring, portare la funzione di mentoring in lingua italiana all'interno del gruppo italiano. Ecco, magari i nostri ascoltatori hanno sentito parlare di Linux, però non hanno ben chiara la portata, soprattutto i risvolti etici e sociali dell'adozione di un sistema operativo open source, cioè basato su codice libero, che non vuol dire che è semplicemente gratis, è una cosa un po' più complessa, giusto Silvia? Esatto, sì. Il fatto della gratuità è solo un aspetto, ma è un po' la punta dell'iceberg, se vogliamo. L'aspetto fondamentale del software libero è la possibilità di usarlo in qualunque modo. Questo è uno dei principi fondanti, la libertà di usarlo, non avere termini di licenza che mi vincolano l'uso. Oltre a questo, il fatto che il software sia open source, quindi sia codice aperto, lo rende disponibile a tutti alla modifica, quindi è possibile studiare questo software, approfondire il suo funzionamento. E in questo modo è possibile migliorarlo, quindi facilmente un utente che trova una limitazione all'interno del software di questo sistema operativo può decidere di portare dei miglioramenti e distribuire a sua volta questi miglioramenti. Ecco, questa voglio lanciare subito un tema, perché provo a indossare i panni, diciamo, faccio l'avvocato del diavolo. I fanatici del software invece sotto licenza ti risponderanno che questo meccanismo di continuo miglioramento, in realtà basandosi su un concetto di lasciatemi dire di best effort, cioè senza avere un'industria dietro che finanzia il miglioramento, in realtà arriva fino a un certo punto, e questo in qualche modo ha ostacolato la diffusione dei programmi del software libero in ambito commerciale. Però qualcosa forse è cambiato da quando, per esempio, questi sistemi operativi sono entrati, da un lato, come distribuiti insieme ad alcuni computer, in particolare i netbook, e poi successivamente sono esplosi nel mondo mobile, come sappiamo, grazie poi anche ad Android, e poi sono entrati, direi, di forza nella pubblica amministrazione e nella scuola. A che punto è l'adozione di questo tipo di software in tutti questi settori? Ma in realtà in Italia non siamo molto, molto avanti, ecco, c'è ancora moltissima strada da fare. Si sta cominciando a muovere soprattutto l'aspetto della scuola, l'aspetto scolastico, perché, per esempio, riferendoci a Ubuntu, esistono delle versioni adatte pensate apposta per gli studenti, quindi che concentrano al loro interno una grande quantità di software pensato per la didattica. Oltre a questo, avere la possibilità di studiare il software è già di per sé una leva importante dal punto di vista della formazione, perché si sta dicendo agli studenti, non gli si sta più dicendo questo è un software, dovete prenderlo così com'è e sapere come si usa. Gli si sta dicendo questo è una materia iniziale, potete farlo evolvere, potete studiarlo a fondo e ottenere quello che vi può servire. Quindi soprattutto nelle scuole la diffusione si sta allargando, perché si sta cominciando a capire questo aspetto. A livello industriale in Italia siamo ancora indietro, so che in Francia invece sono messi meglio, c'è una grossa impresa francese che non ricordo, forse Orange, sì, che ha adottato Ubuntu a livello desktop su tutti i desktop aziendali. Ecco, e questo insomma fa una certa differenza. Per parlare di differenze, diciamo, concrete che una cosa come in generale Linux può fare a livello anche semplicemente ecologico, io non mi stancherò mai di ricordare che in alcune scuole ci sono dei programmi straordinari per cui i computer non vengono praticamente buttati, vengono rigenerati installando le versioni molto leggere di Linux, come Puppy Linux, eccetera, e questo permette ai computer di, di avere una vita più lunga e di essere utilizzati nelle scuole che magari spesso non hanno, no? I computer di cui le scuole avrebbero bisogno. E soprattutto c'è un discorso ecologico, perché tu non butti un computer, e quindi io, insomma, vi invito a guardare anche ogni tanto le foto che circolano di questi mucchi di computer, queste discariche che cominciano ad avere dimensioni veramente preoccupanti, preoccupanti. Allora, dopo aver introdotto Silvia, Silvia che ci ha ricondotto, noi, tu Silvia non hai sentito la prima parte della trasmissione, ma siamo anche sprofondati nel becerume, abbiamo sentito anche delle cose molto tristi su come le donne vengono viste su internet. Adesso cerchiamo un'altra, diciamo così, un'altra angolazione, che è quella di quelle donne che magari non necessariamente cambiano il territorio, cambiano la realtà offline, ma aumentano online la loro personalità. E sentiamo in questo inserto Daniela Farnese. Dania, tu trascorri la tua vita su un divano, il tuo habitat naturale, quindi lavori, chatti, visiti numerosi negozi di scarpe. Ma com'è la tua vita offline? Dov'è la tua vita offline? Ma la mia vita offline è nella maggior parte del tempo sul divano, dove leggo, dormo, passo il tempo, chiacchiero. In realtà io sono sempre in movimento e sono sempre connessa, e quindi io ho deciso appunto di farlo un mestiere del mio tempo nello spazio sociale, che è una sfida, ma che va anche incontro molto alla mia pigrizia, perché ecco, tutte le mattine svegliarmi e andare in ufficio cominciava a essere qualcosa che non mi rendeva felice, quindi ho deciso di abbandonare questa avventura. Quindi è fondamentale essere sui social network, è fondamentale esserci in rete. Ma secondo me partecipare alla conversazione aiuta sia a diffondere le tue idee, sia a farti delle nuove idee, ma anche ad amplificare la tua personalità. Quindi quanto più la tua rete sociale cresce, tanto più tu ne puoi trarre vantaggio sia a livello professionale, ma non solo, anche a livello affettivo, a livello, non so, di personale. Insomma, puoi conoscere, puoi viaggiare anche solo con le persone, con i contatti. Ma come è cambiata realmente, in termini pratici, la tua vita da quando hai scoperto che dal tuo salotto 2.0 potevi praticamente fare tutto? Ma in realtà la percezione del cambiamento l'ho avuta col tempo. Inizialmente vivevo un jet lag sociale pazzesco, perché ero continuamente nelle conversazioni, quindi veglia, sonno, ero sempre con delle persone anche quando ero sola. E poi a un certo punto mi sono accorta che la mia personalità, appunto amplificata, in qualche modo veniva percepita come autorevole. A quel punto mi è venuto un po', insomma, ho detto oddio, adesso devo cominciare a dire delle cose intelligenti. 20.000 pagine lette al giorno sul tuo blog. Sì, esatto, 14.000 contatti su Twitter, quindi ho detto ma forse è il caso che comincio a pensare prima di scrivere, ed effettivamente però mi ha portato un grosso vantaggio anche a livello professionale, anche con gli uomini. Anche con gli uomini. Allora, non si è sentito molto bene prima, la voce che avete sentito è quella di Daniela Farnese, detta dottoressa Dania, una delle blogger sicuramente più importanti che abbiamo in Italia, che si espone rispetto alle cose che abbiamo detto sicuramente anche a delle critiche, perché sicuramente lei gioca molto con quelle che sono le regole di percezione delle donne, però che sono fissate dagli uomini, no? E quindi sotto questo aspetto almeno abbiamo voluto far sentire anche una voce un po' controversa, dopo aver a lungo invece esserci, diciamo così, baloccati con il mondo meraviglioso di Ubuntu. Abbiamo sentito l'innovatrice del sud, eccetera, però c'è anche quest'altro mondo che non può essere ignorato, cioè di persone semplicemente che diventano molto visibili usando le armi tradizionali delle donne. Vorrei sentire il parere prima di Paola e poi sentiamo anche quello di Silvia. Il mio parere al riguardo, benvengano anche i personaggi come Dania, cioè Dania rappresenta un certo tipo di femminilità che è un po' intrinseca in ognuno di noi, poi ciascuna gestisce questa propria femminilità o in maniera privata o in maniera pubblica. Dania ha deciso di farlo in maniera pubblica e ha avuto tutta una serie di successi personali che l'hanno portata anche a una svolta professionale importante. Quindi Dania è stata intelligente a sfruttare l'onda del suo successo per riuscire poi a creare la sua piccola impresa, quindi è una sorta di imprenditrice di se stessa. Poi come l'abbia fatto e quali siano le sue tematiche, questo non è importante, perché fanno parte di lei, è il suo personaggio. Quindi Dania, ben venga anche lei, insomma, come personaggio, come donna di successo. Ecco, però abbiamo parlato di persona e di personaggio. Adesso io un giorno vorrò fare tutta una puntata sul tema dell'identità, no? Però in linea di massima, già il fatto che, insomma, tu hai il tuo nick, però insomma sì, non sei un personaggio in rete, cioè tu sei Paola Santoro e sicuramente no. Anche Silvia, cioè Silvia usa la rete con l'asciuttezza dell'ingegnere e modifica la realtà di conseguenza cercando di migliorarla. Sentiamo anche Silvia. Ma sono assolutamente d'accordo con Paola sul fatto che comunque chiunque deve essere libero di esprimersi come crede, come preferisce, e se poi da questo riesce ad ottenere dei risultati, quindi essere imprenditrice di se stessa, come diceva Paola, ben venga assolutamente. Uno dei punti su cui noi puntiamo quando cerchiamo di coinvolgere un maggiore numero di donne all'interno di Ubuntu e presentiamo la problematica anche ad un pubblico maschile è proprio questo, cioè noi vorremmo che non ci fosse proprio un problema di distinzione uomo-donna all'interno della comunità. Ognuno è un individuo e quindi come tale è importante perché porta un punto di vista unico e diverso da tutti gli altri all'interno della comunità. Sì, però su questo discorso della distinzione io credo che a Daniela si debba... io sono stato volutamente cattivo perché insomma con Daniela normalmente su FriendFeed invece dialoghiamo ed ero sospetto di essere, di essere troppo dalla sua parte. Quello che mi sento di riconoscere a Daniela moltissimo è il fatto che tutto questo, diciamo, spingere appunto verso l'indifferenziazione porta in realtà le donne proprio al fatto di spogliarsi in realtà proprio di tutto il valore, diciamo così, anche emotivo che sono in grado di dare in contesti altrimenti piuttosto freddi come quelli della comunicazione puramente online. Ecco, per tornare al discorso adesso, tu non ci hai sentito prima, Silvia... Noi abbiamo azzardato una teoria, cioè che per tanto tempo internet è stato il regno non solo degli uomini, ma di un particolare tipo di uomini, i nerd, poi diventati geek e poi diventati anche indispensabili. Il 3 aprile qui a Roma c'è un evento molto, diciamo così, Ubuntu e Linux friendly, che si chiama il Nerd Day, il 3 aprile, si svolge qui a Roma sulla via Tiburtina, succedono delle cose, lo voglio segnalare perché succedono delle cose molto utili, ci sono dei seminari, ci sono degli interventi di alto profilo, bisogna dire, ma soprattutto, ecco, io vado sempre a questi incontri perché cambiando computer tipo una volta l'anno, devo sempre avere qualcuno che mi installa un bel dual boot di Ubuntu sul mio computer. Che cos'è il dual boot? È praticamente una installazione che occupa solo una partizione, no? dell'hard disk del computer e ti permette agevolmente poi quando tu userai il computer a seconda delle tue necessità di usare tutto il mondo rassicurante di Windows con tutte le cose che vuoi farci funzionare sopra, però anche prenderti tutti i vantaggi quando ti serve di un sistema operativo come Ubuntu. Tu sei favorevole al dual boot, Silvia, o terresti soltanto Linux sui tuoi computer? Guarda, ti dico la verità, io sono assolutamente favorevole al dual boot, anzi una delle cose che su cui puntiamo quando parliamo di Ubuntu, quando presentiamo Ubuntu a chi ancora non lo conosce è proprio questa, è la possibilità di non allontanarsi completamente dalla copertina di Linux che è Windows, quindi da quello a cui siamo abituati e ancora affezionati, perché comunque lasciare qualcosa di noto per qualcosa che comunque ancora non si conosce fa sempre un po' paura. Oltre a questo, un altro aspetto fondamentale secondo me di Ubuntu è proprio il fatto di poterlo eseguire direttamente da CD addirittura. O anche da chiavetta USB si può esattamente fare, sì. Che è ancora più rassicurante, sì. Non sì. C'è la necessità di formattare il computer e si può ottenere la propria installazione di Windows. E questo è sicuramente, è un... insomma, chi sa di voler tornare, di avere paura di entrare in questo mondo, di poter tornare indietro, basta che toglie la chiavetta, toglie il CD e il problema è risolto. Noi, Silvia, penso che dobbiamo salutarti perché siamo arrivati verso la fine, diciamo, della nostra trasmissione. Ti ringraziamo moltissimo. Vorrei grazie che tu ricordassi il sito del vostro gruppo Ubuntu Women. Allora, ti dico la verità, il sito, l'indirizzo diretto sarebbe difficile da ricordare. Allora sai che facciamo? Mettiamo il link sulla blog di Conversational, esatto, così. Comunque lo trovate sul wiki.ubuntu-it.org. Ok, benissimo. E ringraziamo naturalmente anche Paola Santoro per la sua testimonianza di quello che fanno le Girl Geek Dinner. Io spero che siamo riusciti a fare una trasmissione non di quelle tutte appiattite e politically correct. Abbiamo fatto sentire varie sfaccettature del tema. Non abbiamo fatto, insomma, la puntata su il web al femminile, e di questo, insomma, sono abbastanza contento. Dunque, io intanto vorrei ricordare che tutte le puntate di Conversational si possono scaricare ancora una volta dal sito www.conversational.it, dove, insomma, è anche possibile commentare a posteriori quello che abbiamo detto e magari far scatenare qualche flame, qualche discussione accorata anche sul ruolo e sul contributo originale delle donne al web. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.